Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Prima facevamo le scarpe nuove, poi mano a mano siamo ridotti alle riparazioni, perché di mestiere non impara nessuno e cercano subito lo stipendio. Se rinasco faccio l'idraulico, ma perché ho avuto la visita di diversi idraulici a casa e ho visto quanto guadagnano. Io ho sempre lavorato sul legno, diciamo, nel settore dell'intaglio. Poi dopo c'è stata la crisi e mi sono buttato sul restauro. Ho sempre visto fare questi lavori, tende, poltrone, i miei tutti e due facevano questo lavoro. Un po' ho sempre provato e non mi riusciva difficile, quindi come occasione di lavoro sono entrata. Mi rendo conto che significa andare controcorrente, ma nessuno potrà mai accusarmi di atteggiamento prono nei confronti delle istituzioni. Dire che in realtà quando il ministro Fornero disse che i giovani italiani erano lievemente ciusi, usando un termine molto raffinato, molto aristocratico, lievemente desueto, per dire c'hanno un po' di puzza sotto al naso quando scelgono il lavoro, probabilmente non è che questa sia stata probabilmente la frase meno felice detta dal ministro Fornero. Una base di realtà c'è sul fatto che oggi mediamente un giovane sotto i 30 anni ambisce, ma giustamente, perché i genitori hanno investito nei suoi studi, gli hanno fatto fare l'università, ambisce dunque a fare un lavoro intellettualmente gratificante. Voi dite facile, tu lo dici, ti guadagni la vita chiacchierando alla radio, ti fai due chiacchiere la mattina, torni a casa, hai finito di lavorare. Può anche essere che sia così, non voglio porre me stesso come modello, però vi dico che nell'età che va dai 18 ai 25 anni ho fatto lavori manuali, non mi faceva assolutamente schifo, anzi mi è molto divertito, ho fatto il pompista per molto tempo, ho lavato le automobili, ho lavorato in delle officine, mi piaceva e ancora oggi ne conservo un grato ricordo e una capacità manuale che mi aiuta molto nella vita. Vogliamo portare qualche dato, qualche riflessione sul fatto che oggi sia molto difficile trovare un meccanico, trovare un idraulico, trovare un falegname, trovare una persona capace di investire il proprio futuro in un lavoro manuale. C'è un motivo profondo alle spalle, c'è una scelta sbagliata collettiva o c'è semplicemente un'attitudine, insomma, a non sporcarsi le mani, a non farsi venire i calli sulle dita, a evitare qualcosa che sembra non gratificante. 800240024. Nel 2011 sono stati circa 45.000 i posti di lavoro destinati a persone fino a 29 anni che le imprese hanno affermato di non essere state in grado di trovare sul mercato. Quasi la metà delle assunzioni mancate è dovuta alla scarsa quantità di candidati che hanno risposto alle inserzioni. L'altra metà è legata al fatto che chi si presentava ai colloqui per ottenere il posto non era giudicato sufficientemente preparato da parte delle aziende. Questo è un dato che ci dovrebbe già far riflettere, ma entriamo più nello specifico nel vedere quali sono le caratteristiche di questa ricerca fallita da parte delle imprese. Sono tanti, oltre 45.000 offerte di posti di lavoro inevase. Perché? Perché non c'erano candidati, i candidati che si sono presentati non erano all'altezza di questo lavoro. Quali sono i mestieri snobbati dai giovani? Come prevedibile, si tratta di lavori manuali. Ecco quali sono state le figure professionali dichiarate di più difficile reperimento da parte delle imprese: commessi, camerieri, parrucchieri ed estetiste, informatici e telematici, elettricisti, contabili, meccanici, riparatori e manutentori auto, tecnici della vendita e della distribuzione, idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas, baristi, personale di segreteria, cuochi in alberghi e ristoranti, muratori, disegnatori industriali, centralinisti, telefonisti e operatori di call center. Già mi sta arrivando qualche messaggio in controtendenza, dice chi volesse fare questi lavori non trova formazione, si deve spostare su quei lavori e quindi è molto difficile. Davide, buongiorno, prima telefonata, arrivata subito. Davide? Davide, sì, sono qua. Cosa deve raccontarci? Ah, niente, che io ho 50 anni, da circa 10 anni mi sono messo a fare calzolaio, sono un insegnante precario, ho studiato, ma purtroppo l'apposto non c'è, e allora un mio amico mi parlò, ma perché non provi a fare così? Io ho detto, ma per scherzo andavo così i pomeriggi quando uscivo da scuola, e poi piano piano qualcosa ho imparato, adesso sono circa 10 anni che ho preso un negozio, mi sono aperto un negozio a Torino e faccio il calzolaio. Non sarò felice, non sarò contentissimo, però comunque ho un reddito, posso pensare ai miei bisogni e cose. Perché non è felice? Non è un lavoro gratificante? Sì, è gratificante, però preferivo fare quello per cui avevo studiato, però non è che posso stare a casa a guardare il cielo sperando che arrivi il posto fisso. No, vorrei solo capire. Perché lo dice con questo rimpianto? Secondo lei andare a fare l'insegnante in una scuola... Insegnante dovrebbe dovuto insegnare in scuole superiori, in licei... Superiori. Scuole superiori, ecco. Secondo lei avrebbe fatto una vita migliore, più gratificante, piena di relazione? Se sente l'insegnante è una lamentela continua. Non è più contento di essere autonomo, padrone di se stesso? In fondo fa un lavoro che le esce dalle mani il frutto del suo lavoro e quindi ha la gratifica istantanea e quotidiana rispetto a quello che fa. Sì, in un certo senso, però... Insomma, trova che sia umile fare il ciabattino, brutto il termine, piuttosto che l'insegnante. Qual è il problema? Ma un po' per quello, un po' perché comunque, insomma, a scuola io mi sentivo un po' più realizzato, a dire la verità. Vabbè, anche Diego Della Valle pure, possiamo dire, nasce come ciabattino. Cosa vuol dire? Le aspettative possono andare ben oltre che avere il suo negozio. Questo vorrei cercare di sfatare, mi rendo conto che sembra brutto dirlo, ma non è che nel lavoro manuale ci sia una minore possibilità di creatività, di espansione, anche di ricchezza. Non so se sono convincente in questo. Però capisce, non pronto? Sì, l'ascolto. Però è un lavoro che non è molto apprezzato, io me ne rendo conto quando consegno la roba, la preparo, ci metto buona volontà, cerco di essere puntuale, preciso in tutto, però la gente ti tratta un po' così, allora sa, non è che mi sento molto, cioè, dico, quando poi penso alle fatiche che ho fatto, agli studi che ho fatto, dico ma certamente farmi trattare anche così dalla gente non è che mi piace molto. E allora solo per quello. È comprensibile, questo è un suo punto di vista, vediamo se qualcun altro riesce a confermarcelo o riesce a smentirlo. Esiste, mi sembra aver capito l'ascoltatore Davide, una sorta di considerazione nella nostra società che è molto basata su pregiudizio, che anche un insegnante, se disoccupato, comunque un laureato, una persona che ha una sua dignità sociale, una persona che svolge un lavoro manuale, che può essere un artigiano, un artista della sua manualità, viene trattato con un senso quasi di disprezzo perché è marginale rispetto alla considerazione sociale. Giuseppe Bortolussi, buongiorno. Buongiorno a voi. Giuseppe Bortolussi è direttore dell'ufficio studi dell'Associazione Artigiani Piccole Imprese di Mestre, che ha fatto questa inchiesta, questo rilevamento di cui stiamo parlando. Dalle parole del nostro ascoltatore e dai dati che avete voi elaborato, riesce anche lei a trarre una sua personale considerazione rispetto al problema? Guardi, mi permetta solo una cosa preliminarmente, sgombriamo il campo subito dal discorso che io e lei magari siamo del parere che la gente dovrebbe smettere di studiare e mettersi a lavorare. Ma non ho mai detto questo. Ma è giusto ribadirlo, io sono perché la gente studi perlomeno fino a 18 anni, impara le lingue e se possibile si laurea. Il problema è che se le lauree sono certi tipi di lauree non trovano poi sbocco di mercato. Ecco il discorso di questo signore che poi non trova lavoro e fa un lavoro che non gli dà soddisfazione, non gli piace. Oppure, da quello che capisco io, soddisfazione gliela darebbe anche, è la considerazione sociale che manca di questi lavori. Lui dice, sono le persone che mi trattano con sufficienza, eppure io ho studiato, ma vede, è proprio quella cultura che tratta questi lavori con sufficienza che fa sì che poi i giovani non li facciano, che fa sì che le famiglie non vogliano che i figli facciano questi lavori considerati umili perché manuali. Allora io dico, con una buona cultura tu puoi fare anche questi lavori. Chi è che ce lo insegna? Vede, in Italia noi questa è la caratteristica proprio del nostro paese, però. Proprio del nostro paese, perché le faccio un esempio, con l'Austria e con la Germania, magari anche con l'Olanda e la Danimarca, dove la disoccupazione giovanile si aggira tra l'8 e il 10%, da noi invece il 33%. Abbiamo meno laureati di loro, sia chiaro, ma non è lì il problema perché in Germania, che non ha più laureati dei francesi, non ha più laureati degli inglesi, la disoccupazione giovanile è all'8-10%, perché succede quello che succede anche in una parte d'Italia, nell'Alto Adige. Cos'è che succede? Succede che lì uno sceglie di fare un mestiere, dallo spazzacamino ad altri mestieri, e c'è la considerazione sociale. Tu a una certa età, quando hai studiato, hai imparato le lingue, eccetera, ti iscrivi a queste scuole professionali e lì sta la differenza. In Trentino, Alto Adige, è più alta l'iscrizione alle scuole professionali e correlativamente è più bassa la disoccupazione giovanile, così come in Germania, così come in Austria. Il problema è che lì questi mestieri sono considerati importanti, sono considerati bene dalla società, per cui uno non ha il problema, il patema d'animo di fare qualcosa che è sottovalutato. Fa il suo mestiere, lo fa bene, pagato bene, se è bravo. Ecco, lei ha toccato un punto, che la maggior parte dei messaggi che mi stanno arrivando sono proprio sull'aspetto retributivo. Quanto oltre la considerazione sociale conta il fatto che probabilmente sono mestieri che almeno agli inizi non danno una gratificazione anche economica sufficiente a fare un progetto di vita? Guardi, io non credo questo, perché vede, anche guardando un altro dato, sbocchi per gli under 35 nel 2011, ci sono sì colletti bianchi, ma ci sono anche tanti colletti blu, addetti alle pulizie, che sono macellai, panettieri, pastai, gelatieri, installatori, manutentori di attrezzature elettriche, eccetera. Sono a mestieri dove la retribuzione è sicura e anche consistente. Naturalmente siamo in un periodo di crisi, forse non il momento migliore per cominciare una nuova professione, però questi sono lavori dove, se si è bravi, si guadagna bene, lavori difficili, perché poi c'è tutto l'altro aspetto, le banche, la contabilità. Mi spiego, l'accesso al credito, banche voleva dire questo, accesso al credito, le tasse, sono tutte difficoltà, però io conosco gente che in tempi normali fa questi mestieri e vive adeguatamente. Fermiamoci un istante, Rossana, buongiorno. Buongiorno, io sono la mamma di un ragazzo di 20 anni che sta cercando lavoro da un anno e mezzo, ha fatto un liceo scientifico, è uscito con dei buoni voti e che ha deciso di fare il falegname. Dicendo pure che avrebbe lavorato gratuitamente o perlomeno con un minimo compenso pur di imparare il lavoro. Bene, non è riuscito a trovare lavoro, quindi non è vero che i ragazzi non vogliono fare. Cioè non ha trovato dei falegnami che lo prendessero come apprendista? No. Addirittura è andato a Treviglio, dove cercano, hanno messo annunci sul giornale per avere falegnami, gli hanno detto che preferivano quelli del luogo. Io vengo da Sesto San Giovanni, abbiamo i mezzi comodi, si può arrivare regolarmente in questi posti, ed è un anno e mezzo che ha sempre la stessa risposta: non è esperto, non ha esperienze, quindi non possiamo. Quindi il problema è che lui dovrebbe avere già una sua qualifica professionale per avere lavoro, piuttosto che andare lì come apprendista puro. Il problema è prenderlo come apprendista. Il problema è che comunque non trovano personale, perché continuano a cercarlo, quindi se c'è la possibilità di tirare su dei ragazzi che si mettono a disposizione per fare questo lavoro, lui ha questa opzione. Io credo che sia un valore aggiunto per chi prende un ragazzo. Giuseppe Bortolussi, a questa ascoltatrice cosa può rispondere lei? Ma rispondo che se lei guarda perché si parla di inadeguatezza dei candidati, è per preparazione inadeguata, manca la necessaria esperienza, eccetera. Aspettative diverse dall'offerta, caratteristiche personali non adatte. Ora, chiunque chieda un qualcosa è convinto di poterlo fare. Il problema è che quando uno ha 19, 20 anni o 21, è già tardi per imparare certi mestieri, tanto è vero che nei paesi che le citavo prima uno comincia la scuola professionale a 14-15 anni, capisce che è una scuola dove impara anche le lingue, si fa una cultura. Il problema è che in Italia la gente si iscrive magari al liceo, dopodiché senza saper fare quel mestiere pretenderebbe che l'azienda no, supplisse a tutte le carenze di indirizzo, di cultura che hanno dato la scuola, la famiglia, eccetera, supplisse l'impresa. L'impresa va in cerca di uno che sia adatto al lavoro, che lo possa fare, che abbia la preparazione. Certi mestieri, la storia insegna, ma insegnano anche gli altri paesi, si imparano da piccoli. Mi spiego, quando si ha una certa età. Quindi cercano un falegname già formato, non sanno che farsi. No, non dico, guardi, oggi ha ragione per certi versi la signora, se uno ha fatto un liceo è in grado di imparare anche manualmente, velocemente, per cui probabilmente un difetto dal punto di vista culturale ce l'hanno anche le imprese, sa, non sono mica tutti così incapaci di capire certe cose, però dico attenzione, perché il mestiere bisogna imparare a farlo, non è che dopo rimedia l'impresa e si carica di tutto il costo, bisogna, anche perché le scuole di formazione professionale offrono tutti gli anni i giovani più bravi e quelli vengono assunti quasi tutti, quindi cioè, c'è anche lì una sorta di concorrenza, mi spiego, sono pochi e quindi la gente, hai capito, si accapiglia un po' per prendere, se lei guarda c'è anche un dato che dice concorrenza tra le aziende, mi spiego? Quando c'è bisogno di manodopera si cerca sempre quella più brava, quella e tramite questo rapporto con le scuole professionali si riesce ad avere anche del personale preparato. Sentiamo Antonio, sentiamo Antonio, buongiorno Antonio. Sì, buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Io volevo portare la mia esperienza di vita, insomma io sono un commercialista, ho fatto il mio corso universitario, mi sono laureato, ho fatto la pratica, 3 anni eccetera eccetera, oggi per difficoltà, per diciamo crisi, non ho quel margine di clienti che mi permette diciamo di stare tranquillo e io fin dall'università ho continuato un lavoro che era il receptionist in hotel. Parecchi dei miei amici non sanno che io ancora sto lavorando in hotel e quindi sto facendo un doppio lavoro, però diciamo che me ne vergogno un po'. E perché se ne vergogna, scusi? Ma tra avere un titolo professionale, essere iscritta a un albo, lei lo sa benissimo. Vabbè, non è che fa esattamente un lavoro umile, accoglie i clienti in hotel, un lavoro di grande rispetto e soprattutto di grande qualificazione. Guardi, richiede professionalità, richiede saper stare con il pubblico, richiede conoscere le lingue, richiede anche diciamo... E mi dice poco, scusi. Sì, però guardi, dopo aver studiato così tanto materie tecniche, tributarie, ragionieristiche, aziendalistiche, commerciale, diciamo c'è un know-how... Ma qual è il problema? Ci sono troppi commercialisti nella sua zona? Non penso che sia solo nella mia zona, ce ne stanno tanti, c'è crisi, ci sta crisi, lo sa benissimo anche lei, la tassazione è molto alta in Italia, chi vuole farsi il lavoro, chi cerca di farsi il lavoro, di crearsi il lavoro, di crearsi un'attività, la tassazione è così alta, gli adempimenti sono tanti, la burocrazia è in continua espansione. Comunque lei dimostra che in realtà anche un professionista, non propriamente un ragazzo giovanissimo, può tranquillamente convivere con la professione per cui ha studiato e un secondo lavoro che non è propriamente dello stesso ramo, stessa qualificazione, ma che può fare con grande dignità. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo portare anche io la mia testimonianza. Io ho preso un mestiere da mio padre come motorista, praticamente faccio motori di ogni genere, cambi, differenziali, sia mezzi d'opera, sia mezzi pesanti, di tutto praticamente, quello della questione della meccanica. Io sono padre di una famiglia che lo devo mantenere giustamente. Allora, vi spiego, tutte le ditte che le ho girate, ovunque non sono stato, praticamente ho dato il curriculum, mi hanno accettato, ho cominciato a lavorare. Si lavora 10, 9, 11, 12 ore al giorno per un stipendio miserabile, 800, 850 euro, 900 euro. Addirittura ti fanno venire il sabato mattina e ti dicono bisogna fare, almeno mi pagano di là di qua. Il discorso è, hanno bisogno, è vero che c'è bisogno, però come fai a lavorare con uno stipendio così per mantenere una famiglia? È impossibile, è quello il discorso. Giuseppe Bortolussi, Michele dice un motorista si ha la qualificazione per cui si cerca lavoro, però dopo quando uno va a lavorare l'attribuzione è talmente bassa che guardi, passa la voglia di iniziare questo lavoro per un ragazzo probabilmente. Mettiamo insieme le esperienze di questi due ultimi ascoltatori, uno che è laureato e dottore commercialista e tra i mestieri più richiesti c'è quello di ragioniere, mi spiego, che è non è la stessa cosa, i dottori commercialisti sono qualcosa di più, però insomma è lo stesso mestiere. E fa un altro mestiere che è addetto all'accoglienza, e anche questo è uno tra dei mestieri, dei colletti bianchi, mi spiego, che dà più sbocco di lavoro. Vede, però anche lì, pur essendo un commercialista, oggi che c'è crisi la gente si deve adeguare, non è che perché uno è libero professionista e laureato trova quello che vuole. Su quello che diceva l'ultimo ascoltatore, beh guardi, se uno è apprendista sono quelli gli stipendi, altrimenti vuol dire che non è in regola. Può darsi che in certe parti del paese, soprattutto al sud, ci sia chi approfitta di queste situazioni, ma gli stipendi dell'operaio che lavora in una piccola impresa di solito sono molto più alti, e anche quelli dell'imprenditore di solito riesce a ricavare di più. Non sono mestieri che sono inevasi perché non si guadagna a sufficienza, di solito sono mestieri inevasi perché la gente non li vuole fare, perché la cultura comune, quella che impera nel nostro paese, vede un uomo realizzato solo quando fa un mestiere non manuale. Certo, noi parliamo sempre di lavori nel rispetto totale delle regole, è chiaro che 12 ore al giorno di lavoro, compresi i festivi, per 800 euro, mi sembra che qualcuno se ne stia approfittando di questo signore. Ecco la top 10 dei mestieri in via di estinzione. Collaboratori domestici, addetti alla polizia, raccoglitori di rifiuti, autisti di bus, tram, camion, agricoltori e operai agricoli, muratori, carpentieri, braccianti agricoli, sarti, tappezzieri, ricamatori, carrozzieri, meccanici, allevatori, addetti ai servizi di igiene e pulizia, falegnami, impagliatori. Leggo il senso generale, riassumo il senso generale dei messaggi che mi stanno arrivando. Le persone non nascondono una certa irritazione dal fatto che sembra che noi, forse vale la pena di ribadirlo, tendiamo a disprezzare i lavori di tipo intellettuale, gli insegnanti, chi ha studiato, ma è un dato di fatto. Se in effetti in questi ultimi decenni si è molto investito per laurearsi in lettere, in filosofia, in scienza della comunicazione, in sociologia, in psicologia, e in realtà il mercato del lavoro non assorbe queste figure professionali, forse qualche considerazione, qualche riflessione va fatta. Non esiste una forma alternativa rispetto al fatto che in fondo però i falegnami, i ciabattini, i meccanici, gli idraulici servono comunque, e dal fatto che gran parte dell'immigrazione del nostro paese assorbe proprio queste figure professionali. Provo a farvi un altro esempio. Dunque, ho sotto mani l'edizione elettronica di un libro, Moda e Design in Bilico, Nuove sfide e nuovi lavori, Franco Angeli Edizioni. L'autrice è Emanuela Cavalcaltan. Buongiorno. Buongiorno Gianluca. Dunque, dal suo libro mi sembra di capire che in realtà esiste poi una fetta importantissima di professioni che in realtà non si può certo dire che non facciano parte della gratificazione sociale. Oggi chi fa lo stilista, chi lavora nella moda, chi lavora nel grande design non è certo considerato, come il signore ci ha detto all'inizio della trasmissione, che essere ciabattino significa un'umiliazione quotidiana. Il ciabattino è la forma volgare per definire anche uno stilista o un creatore di scarpe, ma anche in questo settore sembra che ci siano grosse difficoltà a trovare manodopera. Sì, in effetti è vero, perché ti dico che ho intervistato tanti titolari di aziende, eccetera, e mi rispondono che la manualità spaventa. E secondo me, io vorrei rispondere anche a quello che ti hanno detto degli ascoltatori prima. Secondo me è sbagliato considerare il titolo di studio come un arrivo. Secondo me il titolo di studio è un pezzo, è un semplice pezzo di carta che non va appeso alla parete, ma la cultura secondo me è un'altra cosa. Poi bisogna un attimo anche prescindere dal fatto che in questo periodo hanno elargito titoli di studio a persone assolutamente inadeguate. Quindi questi titoli di studio non corrispondono effettivamente alla loro capacità. Sono inflazionati e deprezzati. Mi fai qualche esempio concreto, che hai toccato nel tuo libro, di professioni che apparentemente sono professioni ricoperte da personaggi anche celebri, noti, nei quali però in realtà è difficile trovare ricambi. Esatto, allora per esempio parliamo di modellista, magari per alcuni è un termine un po' strano. Allora chiamiamolo progettista, perché io lo chiamo progettista, cioè per esempio dopo lo schizzo fatto a mano anche a computer, ovviamente c'è la fase della realizzazione al prototipo, che non è certo semplice, perché ci vuole una capacità sia manuale ma anche chiaramente razionale, perché non è che sennò altrimenti le misure, le forme, occorre aver studiato, in sintesi occorre aver studiato per farlo, ecco, non è che si improvvisa. Certo ci sono dei corsi apposta di modellista sia nel settore calzaturiero sia nel settore dell'abbigliamento, certo sono scuole e corsi. Adesso tra l'altro rispondo anche alla difficoltà di trovare dei corsi di formazione. Dall'anno scorso sono nati per esempio dei corsi di formazione superiori che sono gli ITS, e ce ne sono una cinquantina, sono stati creati dal Ministero e sono molto interessanti perché sono in diversi settori. Sono stati creati e voluti da associazioni industriali, aziende, scuole, eccetera, eccetera, e università, e formano periti di quinto livello e hanno un'alternanza, diciamo, scuola-lavoro, scuola, formazione in aula. Torni ancora sul concetto, mi dicevi prima, la voce ricorrente, la manualità spaventa. Qual è il livello di manualità in questi lavori poi alla fine? Insomma, la manualità... Saper usare degli strumenti propri della progettazione o anche dell'esecuzione del prototipo. Certo, quando tu modelli una scarpa devi per esempio mettere anche il montatore di una scarpa ci deve mettere i chiodi in bocca, e questi per esempio la faccenda di mettersi i chiodi in bocca magari può dar fastidio a qualcuno. Però io lo trovo veramente assurdo, perché insomma mi sembra che sia la cosa più logica. Forse bisogna capire che queste professioni sono anche molto retribuite. Un buon modellista, un buon professionista, certo magari con 7-8 anni di pratica. Di pratica, per esempio, può arrivare a percepire dai 3 ai 6 mila euro al mese, più di un direttore di banca. Allora, onestamente, ma chi se ne frega di andare a lavorare in banca? Fermati un attimo, sentiamo qualche ascoltatore. Andrea, buongiorno. Andrea, agricoltore. Andrea, sta pestando l'uva con i piedi. Andrea? Andrea, sì. È accanto al telefono, vediamo se riesce a riavvicinarsi. È un agricoltore, vuole dirci qualcosa, ha una sua azienda, se lo rintracciamo, se ci ascolta qualcuno lo avverte. Buongiorno, dottor Nicoletti. Ah, ecco, è arrivato Andrea. Scusi, mi ero distratto, salve. Mi scusi, niente, io volevo dare una piccola contributo. Due anni, io ho fatto per 25 anni l'allevatore di vacche da latte, ho dovuto smettere 2 anni fa perché le condizioni economiche e produttive, per motivi di globalizzazione sostanzialmente, lì la crisi non c'entra, erano diventate impossibili, questo vale per tutti. Per cui quando voi avete detto allevatori, o meglio probabilmente vi riferivate a mongitori, a dipendenti che lavorano nelle stalle di vacche da latte, vi dico che siete fuori strada, perché la zootecnia da latte in Italia è morta. Ma fermo un attimo, resta lì in linea. Giuseppe Bortolussi, direttore dell'ufficio studi dell'Associazione Artigiani Piccole Imprese Mestre, che ci ha fatto questo tipo di rilevamento. Rispetto al nostro ascoltatore, possiamo specificare a cosa alludevamo? Beh, guardi, si parla agricoltori, operai agricoli specializzati, è una definizione generica, ma che vuol dire anche che l'agricoltura in questo momento sta tirando. Per esempio, il settore che non sta soffrendo nel Veneto attualmente, soffre l'industria, soffrono le costruzioni, soffrono i servizi, l'unico che sta crescendo è l'agricoltura. Adesso la figura specifica, tanto è vero che, guardi, se però mi viene in mente che in Emilia Romagna, nel Veneto, importiamo i SIC, ci vengono, cioè, degli immigrati che mungono, che cambiano la lettiera, le mucche, le cose, sono quasi tutti indiani, tutti o sicca, di altre sì. nazionalità. Significa che c'è richiesta di queste figure. Dopo, in certe zone la gente fa sempre ragionamenti di un certo tipo. A me non succede, mio figlio non trova. Guardate, queste sono statistiche che si riferiscono a tutto il paese e può darsi che certi lavori ci siano da una parte o dall'altra. Fatto sta che uno dei settori che sta tirando in Italia è proprio l'agricoltura. Andrea, d'accordo in generale, a parte, diciamo, la sua esperienza? In generale abbastanza. Volevo dare un ultimo contributo e poi chiudere. E c'è un'azienda bellissima in provincia di Pesaro, a Lunano, che è la prima forse d'Europa, certamente tra le primissime in Italia, che fa impianti di irrigazione, i famosi rotoloni semoventi che esportano tutto il mondo, hanno circa 120 dipendenti, io ci vado spesso per effetti di ricambio, li vado a tutti, conosco bene da 20 anni, allora loro hanno circa 120 dipendenti, potrei sbagliare 10 più 10 meno, 80 sono senegalesi e ghanesi, e il dice, se non avessimo quelli noi potremmo anche chiudere, e non è che li pagano da negri, li pagano esattamente a contratto, e sono figure anche specializzate, nel senso che fanno, cioè, diciamo, non sono schiavizzati come uno potrebbe credere, ma hanno dei regolari stipendi che danno piena dignità al loro lavoro. Bene, non stiamo parlando di raccoglitori di pomodori clandestini, parliamo di personale specializzato, che fabbricano delle macchine sofisticatissime e che sono anche di grande soddisfazione tecnica, secondo me. Quindi alla fine, se uno non è laureato in ingegneria nucleare, forse potrebbe anche accettare, però non accetta, e quindi ci sono questi che sono decorosissimi nel loro lavoro, ma forse sarebbe bene che gli italiani disoccupati si facessero, come dire, in qualche caso un bel esame di coscienza, un piccolo esame di coscienza. Grazie Davide, chiaro. 800240024, questa mattina cercavamo di dare una risposta, se poi sia vero che i giovani italiani sono schizzinosi. La realtà è un pochino complessa, un pochino più complessa di una semplice dichiarazione da Umarelle: oggi nessuno ha più voglia di fare i mestieri di una volta. Sì, è vero, anche questo è vero, ma manca un'adeguata idea della formazione, la scuola non è rivolta alle necessità reali del mondo del lavoro. Enzo, buongiorno. Enzo? Sì, pronto? Eccomi. No, sì, Davide, scusi, per quello che non ho risposto. Vabbè, prima, lei si chiama Davide, ma c'è anche Enzo. Sì. Va bene, Davide, eccomi. Allora, allora io sono un meccanico, ho 30 anni, ho iniziato ovviamente a 16 anni, ho iniziato perché non avevo più voglia di studiare. Mi ricordo qualche anno fa un ragazzo che stava studiando all'università mi dice, dopo un po' che stavo anche chiacchierando, mi fa, vabbè, ma allora tu fai meccanico? E gli faccio, sì, sì, ormai è un sacco di tempo. E lui mi risponde, vabbè, però lo parli bene l'italiano. Sì, l'ha detto la cosa giusta. Noi abbiamo ancora un luogo comune, che questo è arcaicismo post bellico, per cui certi lavori, come nei film del neorealismo, sono fatti da persone semianalfabete, con livelli intellettuali bassi. Ma perché poi quando guardiamo i telefilm americani il meccanico è uno strafigaccione che poi c'ha la sua macchina e carica tonnellate di belle ragazze e può andare la sera nei locali migliori, viaggia, gira il mondo? Come mai da noi pensiamo che ancora il meccanico debba essere un semianalfabeta? Non lo so, comunque non figaccione no, magari belle donne sulle macchine no, però sicuramente qualche serata il lavoro te lo può consentire. Sì, ma lei quando ha chiuso, quando ha tirato giù la saracinesca della sua attività, è una persona esattamente uguale a un'altra, non è che rimangono segni indelebili, ammesso che il lavoro manuale sporchi le mani, e le mani si lavano e uno diventa una persona come un'altra. Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Allora, mio figlio ha 20 anni, diplomato liceo scientifico, ha le patenti A, B, C, E, CQC, sarebbe certificato di qualità conducente, anche la DR. Può guidare qualunque cosa, può guidare. In più può fare anche l'attestato di 1200 ore sia di elettricista e sia di pannelli solari, montatore pannelli solari. Ha mandato una marea di curriculum a livello nazionale chiedono tutti i ragazzi dai 25 in su, non prima di 25 anni. È quindi normale? È troppo giovane. Come fa a trovare lavoro mio figlio? È troppo giovane suo figlio, dice lei. 20 anni, sì. 20 anni. Perfetto. Giuseppe Bortolussi. Giuseppe Bortolussi, esiste questo paradosso? Se uno è il primo della classe e è già formato a 20 anni non trova lavoro? Esiste questo paradosso, peraltro le devo segnalare che tra i colletti blu più richiesti al terzo posto c'è proprio autisti di mezzi pesanti, furgoni ed altri veicoli. Dopo sa l'andamento del mercato, cosa succede in una parte d'Italia e altra, è difficile definire. Ci sono tutte queste contraddizioni, però la cosa principale è questa: in altri paesi come Austria e Germania la gente si iscrive alle scuole professionali, impara a fare un mestiere, c'è tra l'altro scuola e lavoro, alternanza scuola e lavoro, e vengono assegnati di solito a un maestro che è un privato che ha studiato di sera, ha avuto questo titolo di Meister e poi insegna agli altri. È questo che manca nel nostro paese, questa cultura che fa sì che questi lavori, e ripeto, ci sono le contraddizioni, per carità, ma che questi lavori siano considerati a tutti gli effetti dei bei lavori. Vede, c'è anche della gente, lei chiedeva prima, figure che sono riuscite, che hanno avuto successo. Lei pensi a certi parrucchieri? Magari non sono tutti conosciuti internazionalmente, ma nelle singole città c'è il parrucchiere di successo, i carrozzieri, quelli bravi che fanno certe cose. Pininfarina non è mica nato imparato, sa, non è mica nato, credo, neanche ingegnere, non questo, il padre, il fondatore, il nonno. Cioè, il problema è questo, secondo me, credere che si possa, che questi mestieri non abbiano una loro qualità, una loro cosa. No, c'è un po' l'idea che oggi l'unico lavoro che può aprire grandi prospettive sono le start-up giovanili nel settore dell'informatica, della creatività, delle idee. Forse è il caso di pensare che anche lì non è che ci sarà posto per tutti, non tutti possono avere l'idea dell'applicazione vincente che fa diventare ricchi nel mondo dell'informatica da un momento all'altro. Esistono delle vie probabilmente più lente, meno immediate, politicamente fighette, ma che però vanno comunque perseguite. Simonetta, buongiorno. Buongiorno, salve. Io volevo invece portare la mia testimonianza un pochino alla rovescia, nel senso che io molti anni di laboratorio, perché vengo dal mondo dell'alta moda, dietro le quinte in effetti, perché ho imparato il mio lavoro come ricamatrice d'alta moda quando ero veramente piccola e ragazzetta, 16 anni, adesso ne ho ben 46, ho avuto la fortuna poi nel tempo di aprirmi il mio laboratorio e quindi di lavorare per questi dell'alta moda, questi perché poi dopo alla fine non sono quello che sembrano in passarella, dietro le quinte parlo, ho molta difficoltà adesso a trasmettere quello che io ho imparato, quindi ad insegnarlo attraverso le accademie. Quindi ho l'esperienza che magari che cercano, ma non riesco a entrare Ho capito il problema. Lei non si sente considerata come professionalmente qualificata a insegnare. Velocemente, Emanuela Cavalcaltana, ricordo giornalista e autrice di Moda e Design in Bilico. Esatto, ha ragione la signora che ti ha parlato. Per esempio, io vorrei fare un esempio che Chanel ha comperato le Sage, che è una casa e una scuola di ricami, a maggio di quest'anno, e in effetti sono esempi, perché significa di proteggere, di mantenere un certo tipo di cultura che invece da noi non c'è. Forse ecco, la Fondazione Capucci che promuove la conoscenza del plissé o certe cose, ma sono veramente dei fiori all'occhiello. Ha ragione, c'è questa mancanza, questa poca cura nei confronti di certe nostre prerogative, di certe nostre capacità manuali. Ha ragione la signora a dire questo. Comunque sottolineo che per esempio il ricamo o una brava ricamatrice è molto ricercata dagli stilisti, basta vedere per esempio le ultime sfilate di certe persone che hanno portato in sfilata cose fatte a mano, ricami veramente di alto livello. Quindi la nostra ascoltatrice avrebbe titolo per a sua volta differenziare la sua attività insegnando pure, dopo aver fatto personalmente, individualmente per anni questa professione. Qual è il punto per cui dice che ha difficoltà di mettersi in contatto con l'accademia, vuole essere considerata dalle accademie? Ma ritorniamo allo stesso discorso di prima, per esempio, al nord dell'Europa hanno un rispetto e una cultura nei confronti della manualità ben diversa, anche nella stessa Svizzera, veramente, sono completamente diversi, tant'è vero che fanno le Olimpiadi o le gare nazionali e internazionali di professioni, dove noi in genere arriviamo sempre agli ultimi, come elettricisti, falegnami, eccetera, eccetera. Sergio, velocemente, Sergio. Sì, buongiorno. Niente, io telefonavo in quanto laureato, come molti, in geologia, ormai ho 41 anni, non ho mai neanche cercato di fare il mio lavoro, per cui diciamo in qualche modo sono responsabile delle mie sventure, se così si possono definire, e attualmente mungo capre e sono comunque soddisfatto del mio lavoro. Cioè lei mantiene la famiglia facendo il mungitore di capre? In parte, anche perché mia moglie lavora, per cui riusciamo a mantenerci in questo modo, ovviamente. E sua moglie cosa fa? Standard non sono... Quanto guadagna un mungitore di capre? Ma dipende anche da quanto lavora. Nel senso che diciamo mediamente un contratto agricolo, sì, che presuppone anche l'eventuale disoccupazione per i mesi dell'anno in cui uno non lavora, altrimenti se è l'unico a lavorare in stalla lavora 365 giorni all'anno, due volte al giorno. E lei riesce a trovare una filosofia di vita in questo lavoro, essendo laureato, rispetto all'ascoltatore che aveva telefonato all'inizio dicendo mi sento frustrato a fare il ciabattino? Senz'altro, ma io ritengo che la formazione personale possa essere una laurea come un corso di un qualsiasi corso professionale, e poi il lavoro che uno va a fare ovviamente dipende dalle possibilità del mondo circostante e anche dalle proprie scelte. Cioè, c'è un bambino che protesta, sento, forse vuole la sua tazza di latte di capra, glielo porti tranquillamente. Giuseppe Bortolussi, in conclusione, nell'ultimo minuto, il quadro che è emerso da queste telefonate conferma la sua ricerca? Conferma in pieno la nostra ricerca, solo bisogna precisare appunto che ci sono queste discrasie, varie zone del paese hanno richieste diverse, però il problema è sempre quello, c'è una cultura che fa sì che della gente spenda risorse pubbliche e sue personali per un mestiere che non farà, questo è uno spreco di risorse in un paese che invece avrebbe bisogno di avere sì gli ingegneri ma anche l'operaio in gamba. E poi il successo molte volte ce l'ha anche il calzolaio. Noi abbiamo Questo mi sembra l'abbiamo detto chiaramente. Grazie Alessandro Chiappini, grazie Fabrizio Intonti, se no ci segano. A domani.